Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Il Natale è sempre più vicino. Vi chiederete quale sia il nesso tra le sante festività e le quotidiane riflessioni che ascoltate in questo spazio radiofonico. Beh, allora sentite questa storia che arriva ancora una volta dal sud. Non è una realtà rara in Calabria che ci siano molti paesi sottoposti in maniera forte, non strisciante ma pervasiva, a gruppi di criminali. Tutti ne avvertono la forza intimidatrice, gli esercizi commerciali, imprenditori e gli stessi politici sono condizionati in qualche modo nei loro comportamenti di vita quotidiana. Così si è espresso il procuratore di Catanzaro, Vincenzo Lombardo, nel commentare l'operazione dei carabinieri che ha portato all'esecuzione di 10 fermi nel Vibonese nei confronti di esponenti della famiglia Soriano. Non solo Reggio Calabria, dunque, nell'occhio del ciclone della violenza mafiosa. Le imprese erano costrette a subire sui cantieri altre imprese che fanno capo a gruppi criminali. Non c'era area di interessi su cui il gruppo non fosse interessato, ha proseguito il procuratore capo di Catanzaro Lombardo. Ascoltate bene ora. Il procuratore ha sottolineato l'urgenza dell'intervento deciso dalla direzione distrettuale antimafia a 30 giorni dall'informativa dei carabinieri. Perché? Perché non volevamo che il prossimo Natale, ha dichiarato sempre Lombardo, fosse come quelli precedenti, in cui Soriano e i loro amici andavano a prendere prodotti negli esercizi commerciali Grazia e Tamoredei. Avete capito ora qual è il nesso tra le amichevoli chiacchiere in questa trasmissione e il Santo Natale? Mentre la maggior parte di noi si prepara a vivere le festività con spirito cristiano, c'è chi attende queste giornate di fede e gioia per scroccare beni e regali. Un supermarket della violenza che non piacerebbe certo a Babbo Natale. Auguri a tutti!